I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il tormentone della Grecia non sembra proprio trovare pace. Ogni giorno registriamo voci di presunti accordi che poi vengono puntualmente smentite. Ieri è stato il turno del Fondo Monetario, da chi questi accordi li deve poi effettivamente sottoscrivere. La novità di ieri però è che la vicenda greca sta creando sempre più preoccupazione, tanto che anche la Banca Centrale Europea ha per la prima volta ammesso in un rapporto che senza un'intesa rapida si potrebbero presentare rischi di un consistente rialzo dei tassi per i paesi più vulnerabili dell'Eurozona, tra cui, come sappiamo, ci sono anche l'Italia e la Spagna. Quindi la BCE non nasconde i rischi legati a un esito negativo della trattativa. Una cosa però è certa, Atene ha fretta perché le casse dello Stato sono a secco, difficilmente potranno essere mantenuti gli impegni per la restituzione dei vecchi prestiti, ma c'è di più. Atene, per andare avanti, per pagare le pensioni, gli stipendi, ha assolutamente bisogno che venga sbloccata almeno una parte dei 7,2 miliardi dell'ultima tranche del secondo piano di sostegno, cosa non semplicissima. Ieri Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario, ha ribadito che resta ancora molto da fare, ma ha aggiunto che l'uscita della Grecia dall'euro rappresenta una possibilità. Più ottimista il commissario UE Moscovici, mentre per alcuni osservatori c'è addirittura la possibilità che un accordo arrivi entro domenica. Insomma, il gioco delle parti continua, ma si fa più pericoloso, e il monito sul rischio di contagio giunto ieri dalla BCE è lì a ricordarcelo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La recessione è davvero finita. L'Istat oggi ha dato una buona notizia e ha annunciato che la crescita tendenziale del PIL nel primo trimestre di quest'anno va rivista al rialzo allo 0,1%. Sempre uno 0, direte voi, certo, ma è il primo dato positivo da un anno e mezzo, ed è la prima volta da 3 anni e mezzo che l'attività economica risulta in crescita rispetto a un anno prima. È importantissimo il dato sulla ripresa delle costruzioni, più 0,5% trimestre su trimestre dell'anno precedente, ed è un primo dato positivo da 5 anni, e si sa che l'edilizia è il settore che più ha pagato lo scotto della recessione. Nel contempo, anche la deflazione, secondo i dati diffusi sempre oggi dall'Istat, è finita. E il dato di maggio ha evidenziato un ritorno in positivo dell'inflazione annua, per la prima volta dallo scorso novembre, a più 0,2%. In aprile era stata meno 0,1%. È interessante indagare questo dato perché i prezzi sono saliti un po' anche per effetto dell'Expo e dei rincari che questo ha comportato nei prezzi dei servizi ricettivi e della ristorazione, e un po' anche per effetto dei rincari nel settore dei trasporti. Anche l'inflazione sui beni a più alta frequenza di acquisto, che è rilevante per i riflessi che ha su quello che le famiglie percepiscono effettivamente, è rimbalzata da 0 a più 0,3%. Insomma, significa che i consumi ripartono, che l'economia si risveglia dalla glaciazione che l'ha accompagnata ormai per anni. È ancora poco però per cantare vittoria, per brindare a un radioso futuro, ma è comunque un inizio. È ancora un rimbalzo, non è una ripresa duratura, e come dicono gli economisti, anche un gatto morto, se lo si lancia dall'ultimo piano, rimbalza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.